cose consigli. È degno, e del talamo tuo, e del tuo regno. Tormentosa dimora, ecco la destra. Son sposa e grazie ti rendo, oh bella. Dario escluso rimane, ed io da questa frode avrò d'argene amante, e premio e lode.